Dal 10 ottobre fino poi ad aprile 2025 a Bologna ci sarà un ciclo di incontri intitolato Una congiuntura di guerra. Ne parliamo con Nicolò Cuppini che è al telefono con noi. Buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Allora, Nicolò, che cos'è innanzitutto una congiuntura di guerra? Come nasce? Purtroppo è anche una evidenza che in qualche modo abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni nelle notizie quotidiane. Quindi è una congiuntura, un periodo, un'epoca storica in cui il tema della guerra diventa sempre più centrale nel definire quelle che sono le forme di vita collettive sul pianeta, potremmo dire così. Quindi congiuntura di guerra non è solamente i fronti bellici, in questo momento tanti e purtroppo in espansione, pensiamo all'Ucraina, pensiamo a quanto accade in Palestina, ma anche tanti conflitti in Africa, ma anche l'impatto, il riverbero che questi conflitti hanno su un po' tutte le società. Pensiamo a come anche le politiche pubbliche si ridefiniscono seguendo questo tipo di traiettoria. E quindi, insomma, parlare appunto di una congiuntura di guerra significa mettere al centro questo tema. E rispetto al da dove arriva, sarebbe lunga, ne parleremo molto nel contesto di questi incontri, ma sicuramente una delle ipotesi alla base di questo ciclo di incontri è che quello che stiamo vivendo è un periodo che viene definito da una profonda trasformazione, che è quella che deriva dalla crisi dell'egemonia statunitense, una crisi che appunto ha la potenza che per alcuni decenni che ci lasciamo alle spalle ha ordinato il pianeta Terra, oggi non regge più, e quindi dentro questa crisi si aprono faglie che purtroppo, come la storia del passato spesso ci ha insegnato, preludono, costruiscono, creano tante guerre che si Nel documento di presentazione voi evidenziate che si sta registrando uno spostamento di risorse pubbliche dal welfare al warfare. Sì, questo è appunto uno degli elementi che indicavo prima. La guerra non va guardata solamente rispetto a quello che è la guerra guerreggiata, la guerra al fronte, la guerra in trincea, per come la stiamo riscoprendo anche in Ucraina, ma appunto la guerra nei suoi tanti effetti, nei suoi tanti riverberi. Non è un caso che quando Draghi ha spiegato al Parlamento europeo le ipotesi, le linee guida secondo le quali per lui dovrebbe ridefinirsi l'Unione europea, abbia detto che la ricerca universitaria deve diventare dual use, ossia che deve poter essere usata sia per fini civili che per fini militari. Non è un caso che il tema dell'industria bellica entri al centro delle politiche di reindustrializzazione dell'Europa. Non è un caso che si inizi a parlare di ritorno della leva militare, di anche una certa recrudescenza di politiche come il DDL 1660, quindi anche di chiusura di spazi, diciamo, di espressione in Italia, in Europa. Ecco, tutti questi elementi sono appunto parte di questa congiuntura in cui si investe su una dimensione appunto di bellicizzazione della società che impatta ovviamente, come purtroppo sempre succede, in primo luogo su alcuni soggetti, penso in particolare alle frontiere, ai migranti, ma anche all'impatto che ha sulla riproduzione sociale e sulle donne, ma più in generale, insomma, possiamo parlare appunto di un complessivo ridefinirsi di un ordine barra disordine in cui questo elemento bellico purtroppo sta terribilmente al centro, ecco. Questa propensione per la guerra, voi sottolineate che insomma, viene vista come un modo più semplice per tagliare la complessità del presente. Prima citavi, come dire, il mondo che sta diventando multipolare, la crisi di egemonia degli Stati Uniti, la guerra viene proposta come una ricetta. Sì, e questo, diciamo, vale ovviamente da un po' tutti i fronti, sicuramente anche quello che è stata la decisione di Putin con l'invasione dell'Ucraina è figlio di questa logica, diciamo, tra virgolette, semplificatrice, ma guardiamo anche quello che sta, insomma, operando in qualche modo Netanyahu, Israele, in questo periodo in cui l'idea è che con la guerra si possa costruire in qualche modo un nuovo ordine, così è esplicitamente chiamato, no, alla nuova fase bellica israeliana. Quindi appunto l'idea che di fronte alla complessità lo strumento militare possa in qualche modo essere quello un nuovo ordine. Lo stesso vale in qualche modo anche per quello che è la competizione, no, fra Cina e Stati Uniti, che da commerciale rischia sempre di scivolare sul piano militare. Anche lì c'è un tema di competizione che in qualche modo si fa sempre più complessa attorno alle nuove tecnologie, intorno ai cervelli, intorno all'intelligenza artificiale. E appunto di fronte a questa crescendo di complessità sembra che nelle teste purtroppo di molte persone invece la si possa appunto sciogliere, recidere, con l'opzione militare. Ecco, questo ciclo di incontri serve quindi per elaborare strumenti di comprensione critica del presente. Il primo sarà giovedì 10 ottobre. Sì, un po' la scommessa che abbiamo fatto nell'organizzare questo ciclo è quello di attraversare spazi anche molto diversi della città. Giustamente citavi, inizieremo all'Istituto Gramsci, ma ci saranno vari appuntamenti in università, ci saranno appuntamenti in spazi sociali, in biblioteche, proprio l'idea di provare a costruire un'arena in qualche modo di elaborazione critica e collettiva, in cui anche con il contributo appunto di figure anche molto diverse provare a portare sia al centro dell'attenzione ma anche al centro della riflessione questo tema della congiuntura di guerra, provando a farlo appunto con l'ottica anche di elaborare strumenti che possono poi magari essere utili anche al di fuori del ciclo di incontri, per provare chiaramente anche a costruire, insomma, non so se delle forme di mobilitazione, ma sicuramente di aumento della presa di coscienza del periodo che attraversiamo, e chissà, appunto, anche strumenti anche più efficaci. Raccontiamo brevemente un po' i primi due appuntamenti, poi ovviamente dopo diamo anche i riferimenti per vedere tutto il programma. Sì, allora il primo appuntamento, diciamo che quello appunto che ha un po' la volontà di essere introduttivo, quindi si chiama Pensare la guerra oggi, e abbiamo invitato Carlo Galli, Sandro Mezzadra e Laura Bazzicalupo, quelli appunto di indicare quali sono le differenze fra le forme della guerra attuale rispetto a quella della fase precedente, diciamo quello che è successo tra la fine della guerra fredda e gli anni 90. Il secondo appuntamento sarà una giornata di carattere, se vogliamo, più universitario. Si terrà appunto in università e vuole ragionare un po' sugli elementi nuovi, diciamo il contesto bellico, appunto le complessità, la dimensione tecnologica. Il terzo appuntamento, che chiude diciamo l'anno 2024, sarà invece più sul tema Palestina. Relatori e relatrici palestinesi a discutere con noi. Dove trovare il programma completo? Allora, abbiamo fatto un sito che si chiama appunto congiunturadiguerra.blog, dove si trovano tutti gli appuntamenti, l'agenda, dove verranno caricati di volta in volta tutti i materiali, e poi un po' tutti gli spazi e realtà che stanno partecipando diffonderanno, insomma, in modo anche indipendente i vari appuntamenti, quindi dall'Istituto Gramsci, all'università, a uno spazio sociale come Ex Centrale, alla biblioteca Cabral e altri. Grazie mille. Benissimo, grazie mille a voi.